La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 6 giugno 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Soliti e classici contatti 333-180-9494 per i vostri sms e cacciafotone@radiocittafujiko.it per le vostre mail. In maniera del tutto sperimentale, quest'oggi siamo anche in video su Ustream e trovate il link alla sinistra del sito di Caccia al Fotone. Beh, ma quest'oggi parleremo di oceani, o meglio, di oceanografia. Ne parleremo col dottor Alessandro Crise, direttore del Dipartimento di Oceanografia dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Tutto giusto? Perfetto. Dottor Crise, cerchiamo di introdurre un attimo l'argomento con le nostre solite 100 parole iniziali. Che cos'è l'oceanografia? O meglio, oceanografia o oceanografia? Dove va l'accento? Oceanografia. Perfetto. Che cos'è esattamente? È la scienza che tradizionalmente studia il mare e in tutti i suoi componenti fisiche, chimiche e biologiche. Perfetto. Allora, dottor Crise, cominciamo così, andiamo con il primo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi parliamo un po' della struttura dell'oceanografia, cioè che cosa studia l'oceanografia, e poi nella seconda parte parleremo di un convegno che ci sarà l'8, il 9 e il 10 giugno proprio a Genova, un convegno internazionale di oceanografia. Cominciamo la trasmissione. Diciamo subito che la sto rubando a un open day che si sta svolgendo presso il vostro dipartimento, se non erro. È perfetto, e come ogni anno OGS insieme a tutti gli enti scientifici dell'area triestina si coordinano per aprire i propri laboratori al pubblico più ampio e mostrare un pochettino le nostre attività, dimostrare che quello che stiamo facendo ha un senso anche per una per la gente, diciamo così, comune, non solo per gli specialisti. Insomma, il concetto per cui di oceanografia se ne può parlare anche al pubblico, ed è quello che stiamo facendo peraltro in questa trasmissione. Dottor Chris, cominciamo un attimo con la didattica. Mi piace cominciare con la didattica, giusto per capire esattamente che cos'è. Nel lungo fuorionda che abbiamo avuto ieri, lei mi spiegava che non esiste più un'oceanografia unica, ma esistono varie branche dell'oceanografia. Esattamente che cosa sono e che cosa studiano l'una differentemente dall'altra? Sì, ecco, se mi permette, le piace la didattica, mi piace un po' la storia, vorrei fare un minimo di introduzione a questo tipo di discorso. Perfetto. I primi oceanografi erano delle persone che andavano a mare e che studiavano il mare nella sua complessità, cercando di affrontare contemporaneamente i vari aspetti fisici, biologici e chimici, dando risposte complessive. Via via poi la specializzazione, soprattutto nell'altro secolo, ha portato alla identificazione di filoni o tematiche diverse, cioè fino, diciamo, all'inizio della seconda metà del Novecento, i filoni come l'oceanografia fisica, chimica marina e la biologia marina avevano cominciato e interpretato lo studio del mare in maniera molto settoriale. Verso la fine del secolo e nel 2000 ormai c'è stata una convergenza di queste diverse discipline, che si chiamano tutte oceanografia. Quindi abbiamo l'oceanografia fisica, che si occupa della dinamica, cioè del moto degli oceani, delle sue caratteristiche di temperatura e di salinità, del moto ondoso, delle correnti e degli impatti che queste possono avere sugli habitat marini, e come queste poi sono influenzate in maniera, diciamo, biunivoca o interattiva con i processi atmosferici. Questa è la geografia fisica. Poi ci si sposta verso altri tipi di oceanografia, quella chimica e quella biologica, che tengono conto anche di quello che succede nel mondo fisico in mare, ma che poi ha un focus specifico, in un caso, sul discorso o sulla caratterizzazione degli elementi e dei processi chimici e biologici che esistono in mare. Quindi si cerca di studiare in maniera integrata, utilizzando le proprie competenze, ma in maniera multidisciplinare, avvalendosi anche di quello che è stato ritrovato negli altri campi, perché ci si è resi conto che un semplice approccio tematico non riusciva e non riesce a dare le risposte che noi cerchiamo. Lei è un fisico, giusto? Io sono, sì, sono fisico. Ma si occupa solamente di oceanografia fisica, oppure diciamo che si interlaccia anche con le altre tipologie? Ovviamente questo discorso è a Cicero pro domo sua, nel senso che ovviamente io sono un po' borderline, sono un po' al limite, nel senso che utilizzo il mio gruppo con cui coopero strettamente, utilizza delle tecniche che derivano dal mondo fisico, sia per l'approccio che è quantitativo, quindi legata a una formalizzazione matematica complessa, sia per il modo di risolvere attraverso modelli numerici simili a quelli che si utilizzano in meteorologia per le previsioni. Però studia i processi biogeochimici, quindi l'interazione del mondo fisico con quello chimico e con quello biologico. Quindi questo è un po' il concetto. Sì, l'approccio è fisico, la problematica è multidisciplinare, e ovviamente nel gruppo non esistono solo fisici, ma esistono scienziati ambientali, esistono chimici, esistono biologi. Dottor Case, è strano che normalmente di oceanografia non se ne parla quasi mai, eppure insomma il nostro pianeta non è certo coperto da terra, ma è coperto fondamentalmente dalle acque. E quindi effettivamente quali sono i problemi attuali che vi state trovando ad affrontare? Quali sono i problemi che vi creano più problemi? Benissimo, accetto il gioco di parole. Allora, i problemi che ci danno problemi sono quelli che non sappiamo risolvere, altrimenti li avremmo già risolti. E questo mi sembra già un passaggio. Le grandi sfide, diciamole così, quelle che veramente collegano la ricerca per sé e l'applicazione o l'impatto su un mondo più ampio, si possono ricollegare ad alcune tematiche principali, che sono: una, il discorso dei cambiamenti globali, di come gli oceani reagiscono e influenzano sul medio-lungo periodo il clima terrestre, ed è un qualche cosa che non è assolutamente ancora totalmente esplorato, anzi è una tematica di grandissimo interesse su cui c'è un grande enfasi non solo a livello italiano e europeo, ma a livello mondiale. È una tematica pervasiva e coinvolge tutti i campi. Le parlo realtà... un attimo, voi collaborate anche con l'IPCC, cioè i vostri dati sono forniti all'IPCC per fare i report? Noi abbiamo partecipato attraverso, non direttamente noi, i rappresentanti italiani, a portare la nostra voce, diciamo così, all'interno dell'IPCC. Diciamo che la parte più debole dell'IPCC è proprio la parte che stiamo trattando noi in questo momento, quindi il discorso biogeochimico e la proiezione di questi scenari, anche perché oggi come oggi questo tipo di analisi è ancora nella sua infanzia, quindi non c'è molto a disposizione per fare, per portare un contributo, come dire, sufficientemente realistico. Stava parlando dei problemi dei cambiamenti climatici che vi trovate ad affrontare proprio studiando questi fattori. Sì, ecco, questa è la tematica, una delle tematiche importanti. L'altra tematica importante, un po' connessa ad essa, un po' connessa all'impatto dell'uomo, che è uno dei fattori principali di cambiamento in ambiente marino, è il discorso della biodiversità, cioè è un approccio che è legato essenzialmente al mondo biologico, ma ci si rende conto che la biodiversità è legata agli habitat, e gli habitat a loro volta sono legati alle condizioni chimiche e fisiche in cui gli organismi viventi si trovano a evolversi, e di nuovo si parte da un processo o un problema che specificatamente biologico, che invece viene allargato a tutta la comunità in maniera multidisciplinare. La biodiversità è a rischio, l'attività dell'uomo va a alterare il funzionamento degli ecosistemi, l'inquinamento in certe aree è importante, sono trovati per esempio segnali di inquinanti o pesticidi emessi nel mare dall'uomo in profondità, in squali nel Mediterraneo che vivono sempre sotto i 2000 metri, quindi i processi fisici trasportano rapidamente questi inquinanti che vengono accumulati anche nei pesci che vivono in profondità, quindi per dire non sempre l'origine della zona inquinante è ristretta alle aree costiere dove di solito viene nasce, ma può essere trasportata attraverso i processi fisici fino in profondità. Non è un pericolo, non è un dramma, ma è un segnale che il sistema o gli ecosistemi marini sono fortemente intercollegati e rispondono, soprattutto in area mediterranea, molto rapidamente. Dottor Case, io immagino che per studiare questi fattori dovete mettere praticamente dei dati all'interno di un programma. Vorrei capire quali sono i parametri da inserire all'interno di questo programma, in parole povere, quali sono i parametri dell'algoritmo che fa il sistema complessivo dello studio degli oceani? Ecco, una bella domanda che io però girerei un momentino in maniera più, come dire, più generale e meno tecnica. Essenzialmente noi che cosa vogliamo studiare? Parlo del mio interesse scientifico personale, cioè, noi siamo interessati a vedere come funzionano i cicli biogeochimici, cioè noi possiamo descrivere un ecosistema, cioè la dinamica che tra i vari organismi che vivono nel mare in una certa area limitata, mettiamo il Mediterraneo piuttosto che l'Adriatico o il Tirreno, no? Possiamo descrivere il comportamento degli individui in varie maniere. Una maniera molto semplice è dire: ogni individuo viene descritto dal suo contenuto di carbonio, che è il mediatore universale in campo biologico dell'energia, cioè la fotosintesi crea dell'energia sotto forma di sostanza organica che poi viene utilizzata dai vari elementi della catena alimentare come alimento. Noi come uomini siamo degli eterotrofi, cioè cibiamo di cose che hanno prodotto altri organismi. Lo stesso tipo di discorso, per semplificare il tutto, viene fatto anche in mare, quindi noi descriviamo ogni componente in termini di capacità di produrre, assorbire e metabolizzare il carbonio. Questo è un processo che non è sufficiente, a questo aggiungiamo poi degli elementi limitanti che sono noti, che sono i fertilizzanti, come si usano in terra per fertilizzare i fosfati e i nitrati, così anche in mare hanno lo stesso ruolo. Quindi noi agganciamo questi cicli carbonio, azoto e fosforo in modo da descrivere il sistema. Problematica chimica applicata alla biologia risolta come i fisici. I fisici cosa fanno? Cercano di fare dei modelli matematici che descrivono questo. Quindi abbiamo bisogno di supercomputer che risolvono delle equazioni molto complesse, non lineari, quindi dei sistemi estensivi che descrivano questo tipo di cicli, i quali a loro volta hanno bisogno A, di una parametrizzazione fine che tenga conto delle specificità del sito, B, dei dati iniziali per far partire il modello, non è difficile da spiegare, ma il modello non può partire da zero, deve partire da condizioni iniziali note. Quindi, per dirla in parole povere, l'Oceano Pacifico non è uguale all'Oceano Atlantico perché ha differenti caratteristiche, giusto? Certo, ha differenti caratteristiche fisiche. Là abbiamo il Niño e nell'Atlantico non ce l'abbiamo, tanto per dire uno degli esempi classici. Ha popolazioni che vivono là differenti, ha caratteristiche chimiche differenti. Per esempio, ci sono zone dove l'ossigeno disciolto nel mare è praticamente assente, cosa che per esempio in Atlantico questo non succede. Questo è legato alla dinamica specifica dei bacini. Dottor Kessel, mandiamo un pezzo musicale, torniamo in studio e poi continuiamo con la nostra chiacchierata, e soprattutto parleremo del convegno che si svolgerà l'8, il 9 e il 10 giugno proprio a Genova. Perfetto. Se la prima domanda del secondo blocco è questa: sono processi previsionali, nel senso che essendo così complesso l'algoritmo è possibile dare una previsione del movimento delle acque, non lo so, nell'Oceano Pacifico o nell'Oceano Atlantico o nel Mediterraneo, che poi è il suo campo di studio principale? Ecco, questa è la sfida che noi abbiamo raccolto come comunità a livello europeo. È partito da poco un progetto europeo che si chiama MyOcean, che è un'iniziativa congiunta dell'ESA e della Commissione europea, che ha proprio come scopo di mettere a sistema tutti i sistemi regionali che osservano, analizzano e predicono a breve termine parlo, le condizioni, lo stato del mare. Ecco, noi come ambizione, quindi quello che se ne parlerà a Genova, ma è quello di cui sta discutendo a livello europeo ormai da alcuni anni, abbiamo l'ambizione di riprodurre per il mare quello che è stato fatto per l'atmosfera, cioè la possibilità di dare il tempo marino, non il clima marino è un qualcosa che si riesce a fare abbastanza bene già adesso. La sfida è quella di dare anche delle previsioni a medio breve termine, quindi la risposta è sì, si può fare, almeno noi tentiamo di farlo e lo stiamo facendo. Quindi insomma è possibile in questo momento prevedere il tempo sopra il mare ma non sotto e nelle profondità del mare, allora, giusto? Io dico che lo stiamo facendo, nel senso che abbiamo già dei siti web che si possono contattare liberamente, in cui vengono messe a disposizione per tutto il bacino mediterraneo e per alcuni sottobacini le previsioni del tempo marino, quindi temperatura, salita, correnti, moto ondoso e così via. Più i parametri biogeochimici principali, clorofilla, ossigeno, nutrienti e così via, disponibili in rete, quindi chi ha voglia di vederlo è un qualche cosa che può andare a trovare. Se uno si collega con il sito del Gruppo Nazionale di Oceanografia Operativa, facile cercarlo con Google, ha la possibilità di accedere sia ai dati che vengono raccolti per innescare questi modelli, per controllare questi modelli, per, come dire, cercare di indirizzarli. I modelli sono sempre sbagliati, i dati sono più giusti ma sono pochi e scarsi, e quindi la fusione tra dati e modelli è il meglio che si riesce a fare. Quindi dati, modelli danno queste analisi, queste previsioni, questo stato del mare, che sono disponibili a tutti quanti. Ovviamente siamo ancora nell'infanzia di questi studi. La fisica è meglio nota, la parte biologica e chimica è agli esordi, però noi abbiamo già un sistema per la parte biogeochimica che funziona settimanalmente con previsioni a 10 giorni da 2 anni, senza interruzioni, senza restart, senza problemi, e i pochi confronti che siamo riusciti a fare, il problema sono avere i dati sufficienti per fare una validazione del modello, dimostrano che il modello è essenzialmente, ha una capacità predittiva buona e riesce a dare un'immagine abbastanza precisa di quello che succede soprattutto nello stato superficiale. In profondità è più difficile da dire, ma diciamo che nei primi 200-400 metri il modello è sufficientemente realistico per poter essere utilizzato anche a livello professionale, non solo a livello di curiosità. Tant'è che c'è un interesse forte per questo tipo di attività anche dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Senta, io sono molto curioso, ma effettivamente come vengono fatti i rilevamenti, a distanza di quanto tempo? C'è una rete di rilevamenti e non lo so, si va in barca, c'è una rete di rilevamenti fissa, come funziona tutta questa rete? Ecco, questo è il punto debole, diciamo che il discorso dei, perfetto, l'abbiamo imparato subito, dei modelli è consolidato, è abbastanza ben oleato. Noi ci avviliamo del Cineca, come nel nostro caso, come sistema di calcolo, abbiamo una rete molto veloce di connessione, modelli sono stati testati in casi specifici, quindi abbiamo questa parte abbastanza consolidata. I dati invece devono essere a disposizione in tempo reale, cioè immediatamente appena acquisiti devono essere trasmessi in modo tale che i modelli ne possano fare uso. Per far questo ci sono state tutta una serie di iniziative europee di cui noi siamo partner, che presuppongono la messa a mare di strumenti. Non si può più pensare di andare con la campagna in cui il singolo ricercatore fa la misura, analizza, spedisce dopo una settimana i dati, è troppo tardi, noi dobbiamo avere i dati in giro poche ore, come fanno i meteorologi. Allora, che cosa c'è che funziona? Adesso ci sono una serie di iniziative che stanno sfociando in infrastrutture, che dovrebbero sfociare in infrastrutture europee permanenti, che sono basate sulla, per esempio, presenza di boe flottanti profilanti, cioè ci sono delle boe che vengono buttate a perdere, trasportate da correnti, che vanno su e giù, e in questo movimento verticale profilano le caratteristiche fisiche e tra un po' anche biogeochimiche del mare. Ci sono dei punti fissi di misura in mare aperto, dotate di boe e sistemi sottosuperficiali che misurano parametri fisici, chimici e qualche parametro biologico. Queste reti fanno parte della rete mondiale OceanNet e questi dati vengono trasmessi in tempo reale ai siti di raccolta, che poi li distribuiscono ai siti previsionali. Tra l'altro lei citava prima il sito, che adesso l'ho recuperato in rete, è gno.bo.ingv.it, quindi per coloro che volessero informarsi sui sistemi di rilevamento e sì, sullo stato del mare, insomma, si possono informare, ecco, direttamente da lì. Posso andare là, c'è una pagina dedicata a questo, cliccando si dovrebbe riuscire ad accedere ai vari componenti osservative. Ce ne sono anche molte altre, il satellite per esempio è una cosa molto importante, noi da satellite riusciamo a fare delle immagini superficiali peraltro di quello che è lo stato della temperatura, di quello che è la clorofilla superficiale, così, la trasparenza dell'acqua, parametri estremamente importanti per quanto riguarda poi l'uso da parte dei modelli di questo. Per la parte fisica c'è stato implementato dai colleghi delle NGV di Bologna, noi con Bologna abbiamo un link particolarmente forte, come si vede, non solo a causa della trasmissione, dei sistemi che permettono di integrare in maniera ottimale queste informazioni esterne rispetto a quelle che sono le previsioni dei modelli, che in questa maniera vengono, come dire, corretti in modo da seguire il più possibile le previsioni quando le previsioni sono disponibili, e partire per il forecast, per le previsioni a breve termine, da un punto di partenza quanto più prossimo alla realtà possibile. ma effettivamente il discorso dei dati, soprattutto per la parte biogeochimica, è ancora un punto critico. Abbiamo anche delle collaborazioni con traghetti, con navi di opportunità cooperanti, che ci permettono di andare a bordo e lanciare degli strumenti che vengono buttati a perdere, in modo da fare dei profili che sono di temperatura o di clorofilla, che aiutano comunque la comprensione della parte superficiale del mare. Quindi non esiste una soluzione per il sistema osservativo, perché è molto costoso. Abbiamo i satelliti, abbiamo misure in situ e abbiamo iniziative che ci permettono di coprire al meglio l'area mediterranea. Senta, lei ci dava peraltro l'INGV con il link buono, diciamo, e infatti noi qui abbiamo avuto molte volte il dottor Castellari, che ci ha parlato, certo, insomma, dei cosiddetti cambiamenti climatici, certo, e di tutti quei fattori che poi abbiamo letto sui giornali in maniera molto sensazionalistica, però lui ne parla in maniera un pochino più scientifica degli altri. Senta, con lui abbiamo affrontato molte volte il problema della corrente del Golfo, che è il problema della temperatura del pianeta, dei moti convettivi, dei moti convettivi dei mari, dei moti convettivi dell'atmosfera. Effettivamente riuscirebbe a spiegare in poche parole ai nostri radioascoltatori che cos'è il problema della corrente del Golfo, senza dover andare dentro i dettagli? E forse il problema in assoluto? Beh, diciamo che è un problema che ha interessato anche il vasto pubblico attraverso alcuni film sensazionalistici, eccetera. Ma in realtà c'è questa preoccupazione concettuale sul fatto che al momento la corrente del Golfo è un mezzo molto efficiente per trasferire calore dalle basse latitudini, quindi dalle tropici, alle alte latitudini, tant'è che si sa, è noto a tutti, che in Norvegia d'inverno le città sul mare raramente scendono molto sotto lo zero, dall'altra parte le stesse latitudini in Canada si possono avere 30 gradi sotto zero per tutto l'inverno, proprio per questo effetto mitigatore della corrente. Allora, la corrente va a nord perché? Da una parte perché è, come dire, innescata sul lato americano da una circolazione vorticosa, è un giro praticamente che è innescato dal vento, quindi parte da là, parte dalle aree del Golfo del Messico, porta su dell'acqua calda. Ma perché va a nord? Un po' perché c'è questo giro che la innesca, ma soprattutto perché a nord l'acqua diventa molto fredda, densa e, diciamo, casca il cosiddetto moto convettivo. Questo va ovviamente a ventilare, a portare acqua nuova in profondità, è un sistema che mantiene l'oceano vivo e vitale e in moto, allo stesso tempo richiama acqua da sud, questo richiamo porta all'acqua calda. È un sistema che si perpetua uguale a se stesso da centinaia di anni, giusto? Sì, diciamo che adesso io non sono un paleoceanografo, ma a memoria d'uomo sicuramente è sempre funzionato così. Qual è il problema? È un sistema critico, perché se quest'acqua per un motivo qualsiasi non scende più, non c'è più richiamo e quindi non abbiamo più l'apporto di acqua calda nelle fascia subpolare, quindi ci troveremmo ad avere un Canada esportato in Europa. E quale potrebbe essere il meccanismo? Uno dei meccanismi a rischio, diciamo, è lo scioglimento molto rapido della calotta polare artica. L'acqua che viene fuori dal ghiaccio è sì fredda, ma è senza sale, quindi è molto più leggera dell'acqua circostante. Questo effetto potrebbe bloccare la formazione di quest'acqua densa che casca e quindi bloccare a sua volta il richiamo dell'acqua calda. Questo implicherebbe la presenza di una corrente del Golfo distorta, il cui percorso sarebbe limitato alle basse latitudini, quindi non riuscirebbe a arrivare così a nord come fa adesso, e potremmo creare una situazione di ghiaccio simile al Canada anche nel nord Europa. Ecco, questo è il meccanismo in estrema sintesi che potrebbe innescarsi. Da quello che so io, ci sono state delle prime misure fatte dai colleghi inglesi, Bryden in particolare, nell'acqua profonda per vedere se c'era una diminuzione, pareva che ci fosse qualche segnale, però ulteriori studi non l'hanno totalmente confermato, quindi è ancora incerto. Questo è uno dei tanti motivi per cui serve un sistema mondiale di rilevamento, che si sta cercando di creare, è quello di cui stiamo parlando da tutta la puntata. Adesso mandiamo l'ultimo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi, visto che non sono arrivati SMS, l'ultima domanda gliela faccio io e sarà sul Mediterraneo. Benissimo. fase finale della trasmissione. Dottor Chise, volevo farle l'ultima domanda, visto che lei si occupa di Mediterraneo. Effettivamente in questo momento qual è lo stato del Mediterraneo, visto che insomma è il nostro mare e forse è l'unico del quale ci interessa direttamente? Non siamo così egoisti, ma sicuramente è forse il mare in cui possiamo dire qualcosa e fare qualche cosa. Allora, è una domanda difficile la cui sintesi è estremamente complessa. Quello che sappiamo è che il mare Mediterraneo è anche più sensibile e più rapido nelle mutazioni, anche se confrontato con gli oceani, ha una scala tempo molto più rapida, quindi se succede qualcosa in Oceano Atlantico sicuramente potremmo avere dei prodromi a scala tempo più bassa in Mediterraneo, quindi è probabile che se c'è una modificazione importante a scala grande ci sia qualcosa anche in Mediterraneo, ma il Mediterraneo è molto diverso come dinamica rispetto all'oceano, viene chiamato un oceano in miniatura, non è proprio così, è un bacino semichiuso con caratteristiche peculiari, e questo, il fatto che sia semichiuso, che queste caratteristiche siano peculiari, lo rende anche più sensibile. Allora, ci sono alcuni problemi chiari, evidenti. Il primo problema grosso, o meglio, la soluzione va distinta in fasce costiere e mare aperto. Allora, le fasce costiere hanno comportamenti totalmente diversi dal mare aperto, soprattutto dove ci sono le piattaforme continentali. Noi abbiamo zone costiere con eutrofia spinta, con grosso impatto della pesca, e zone di mare aperto dove la oligotrofia non si sa neppure cosa sia, dove la pesca non esiste perché non c'è niente da pescare, perché il mare è un mare essenzialmente povero di vita, è blu, è bellissimo proprio perché non si pesca molto e non c'è produzione primaria, quindi non c'è capacità di carico sufficiente a mantenere la catena trofica. E come si dice in matematica, questo cambia le condizioni a contorno. Esatto, completamente. Allora, cosa succede? Di condizioni a contorno, una condizione a contorno cambiata è stato il canale di Suez. Il fatto di aver messo in comunicazione il Mar Rosso con il Mediterraneo ha creato un percorso privilegiato per l'invasione di specie non tipiche mediterranee che sono entrate nel bacino orientale e che via via, data il riscaldamento progressivo dell'acqua del bacino mediterraneo, che è un dato di fatto, si stanno spargendo in tutto il Mediterraneo orientale, ma anche negli altri bacini. Ci sono specie cosiddetti immigratori, le sepsiani, da Ferdinando delle Seps, che è stato il ideatore e realizzatore del canale. Questi migratori sono entrati e progressivamente da un secolo a questa parte stanno invadendo il bacino mediterraneo. Non sostituiscono tipicamente le specie autoctone, però spesso diventano le specie dominanti. E quindi questo è un problema, perché va a intaccare in maniera non controllata e non facilmente prevedibile la struttura delle comunità viventi del bacino. L'altro problema grossissimo è l'inquinamento da petrolio. C'è una quantità di petrolio che passa per il Mediterraneo che è estremamente elevata. Il bacino è semichiuso, quindi quello che c'è là resta. Di media il petrolio può essere anche parzialmente metabolizzato da batteri, quindi non tutto rimane là, però la parte più dura, più resistente, rimane nel bacino. Dottor Chise, io la ringrazio per essere intervenuto qui in diretta a Caccia Fotone. Mi permetto di ricordare ancora una volta che l'8, il 9 e il 10 giugno 2009 ci sarà questo congresso in cui si parlerà proprio di oceanografia osservativa e sperimentale. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Radio Città Fucico, e come al solito vi auguro una buona scienza a tutti.